Qual è la differenza tra lei e un altro produttore di vino e di olio? Allora, innanzitutto questa si chiama 360 Grid Evolution perché? Perché è stata fatta a 360 gradi. Quindi le varie azioni che noi abbiamo fatto sono state molteplici, cioè dalla dismissione per esempio di 70 ettari destinati alla produzione di tabacco, che poi questa era una coltura altamente energivora. Lei pensi che 80.000 litri noi utilizzavamo all'anno soltanto di gasolio, poi è stato invece trasformato in 40 ettari di vigneto. Il fotovoltaico abbiamo fatto 50 kW nel 2009 e nel 2010 entreranno in funzione altri 70 kW. E la gestione corretta dei boschi e la trasformazione da aceduo ad alto fusto. Che vuol dire questo? Perché anche chi è che possiede dei boschi, però li lascia in disuso e non riesce a far assorbire alle piante stesse il CO2, ovviamente c'è una riduzione nettamente minore. Adesso, per rispondere alla domanda, quanto è costato? Nel nostro caso specifico, sicuramente sopra i 7 milioni di euro. Però c'è Ah, stato un però. investimento di una cantina, c'è stato un investimento di un frantoio, c'è stato un investimento di 40 ettari, 40-45 ettari di vigneto, altre 13.000 piante di oliveto e così via.